nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Benvenuti a tutti a Due di Denari. Mauro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Deborah, buongiorno agli ascoltatori. Oggi parliamo dell'ape, l'insetto più ricorrente del 2017. Esatto, è diventato operativo l'anticipo pensionistico. Il presidente del Consiglio Gentiloni ha firmato il provvedimento finalmente nei giorni scorsi, però come sempre tutto quanto parte qua in Italia manca ancora qualche pezzo, per cui oggi vi racconteremo se e come e quando sarà possibile fare la domanda per l'anticipo pensionistico, ma in realtà ancora quest'ape volontaria non può decollare, non può volare, proprio perché alcune gambette mancano. Sì, appunto. Siamo quasi pronti, ma come dicevo già ieri, è sugli avverbi che poi crollano le civiltà, e quel quasi sta lì e grava, ma lo spiegheranno i nostri ospiti. E poi parleremo naturalmente nella seconda parte della trasmissione di voucher. Esatto, ma che sono non già si chiamano partiti. Più voucher. No, esatto, si chiamano con due, in realtà sono due nuovi contratti che sostituiscono appunto i vecchi voucher, sono il libretto famiglia e il copro era all'inizio. Sì, era un acronimo che avevamo scherzosamente inventato. Il contratto di prestazione occasionale. Il presto, perché consulenti del lavoro piace chiamarli così, questi nuovi contratti. Questi invece sono partiti, cancellati con un colpo di spugna a marzo, a maggio è arrivato il provvedimento, in estate sono partiti, boom o flop, chi lo sa? Ma guarda, sembra che siano partiti un po' lentamente. Ricordiamo i vari modi per mettersi in contatto. Volentieri. Con Due di Denari. Vai, allora, cosa allora, vuoi cominciare? Io comincerei dagli sms 349-238-6666 se volete mandarci un sms. Anche WhatsApp riceviamo, li guardiamo da qui, e poi potete chiamarci all'800-24-0024. Il tema pensionistico vi piace sempre molto, e naturalmente se siete lì dei lavoratori pronti e avevate già tutta l'intenzione di chiedere l'anticipo pensionistico, ma in realtà è un traguardo cui guardate ma che non riuscite ad agguantare, chiamateci, raccontateci le vostre condizioni. Peraltro il tema importante è anche la quantificazione dell'assegno, questo prestito, poi quanto andrà a costare alla fine, perché di questo si tratta. E quindi 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta. Direi di partire. Andiamo. Quando in pensione io me ne andrò, manca poco ormai, bigliettini con gli auguri mi scriverai o bottiglie regalerai. Allora, non possiamo dire di avere portato a casa il risultato perfetto, ma almeno anche in questo caso con tutta calma abbiamo il provvedimento sull'ape volontaria. Peraltro ape volontaria, ma è l'anticipo pensionistico, quindi è maschile, però in realtà un connotato femminile a breve potrebbe anche averlo, no? Ma adesso guarda, l'anticipo. Io supererei questo dilemma grammaticale per dire che si potrebbe anche interpretare questo acronimo con anticipo proprio esborso, nel senso che è un prestito, come hai ricordato giustamente. Esatto. Tu, allora, tu che sempre ci parli delle borse, degli investimenti, dei nostri risparmi, capisci bene che come tutti i prestiti uno riceve del denaro, ma poi ohimè gli tocca restituirlo. Esatto. Quindi qual è il corretto bilanciamento, quale potrà essere la corretta, il punto di convenienza, ecco. Esatto. Il punto di convenienza, e quindi qui c'è la corsa a tutte le simulazioni da fare, no? Molte sono stamattina sul Sole 24 Ore, ma noi abbiamo scomodato stamattina anche una società di consulenza che ce ne ha portate alcune, quindi direi di dare il benvenuto anche ai nostri ospiti. Allora, se vuoi ti lascio fare il padrone di casa stamattina. Allora, oggi abbiamo, lo vedete già chi ci segue su Facebook, dobbiamo perfezionare a fare i padroni di casa, magari presentare anche un caffè agli ospiti che vengono a trovarci poi nei prossimi giorni. No, anche questo è come l'ape, è a loro spese, se lo devono portare da sé e eventualmente se glielo offriamo ce lo devono restituire. Benissimo. Allora abbiamo Matteo Prioschi, collega del Sole 24 Ore, è un esperto. Sì. Perché si occupa da tempo, da tanti anni, di previdenza e anche di ape, la sta seguendo in tutti i suoi passaggi attuativi. E poi abbiamo Andrea Carbone di Progetica, e Andrea Carbone è proprio l'uomo delle simulazioni, dei numeri, mi viene da dire, giusto Andrea? Sì, cerchiamo di rendere comprensibili per le persone gli impatti delle norme, delle varie riforme. Tra l'altro tema delicato, perché ogni persona ha una situazione diversa, quindi qui hai voglia a stabilire, a spiegare le regole generali di funzionamento di un certo meccanismo, quando poi ognuno deve fare i suoi conticini, no? Individuali. Allora, peraltro, sempre il Sole 24 Ore raccontava in questi giorni che si stima una platea potenziale, sono stime del governo, di 300.000 persone nel 2017 interessate all'assegno, appunto, all'anticipo previdenziale, 115.000 5.000 nel 2018. Quindi lavoratori che non hanno ancora perfezionato del tutto il diritto alla pensione, ma possono chiedere di andare un po' prima. Possiamo chiedere a Matteo qualche delucidazione, ma direi su questa proprio platea. Di sì. Matteo, facci un riassunto. A che punto siamo e queste stime ti sembrano attendibili? 300.000 persone già da subito, poi da maggio, perché abbiamo già ricordato, sì, che il decreto è retroattivo. Sì, le stime possono essere attendibili, tenuto conto del fatto che appunto quest'anno c'è un surplus, nel senso che, allora, partiamo dai requisiti: bisogna avere 20 anni di contributi, 63 anni di età, e la pensione di vecchiaia deve essere lontana non più di 3 anni e 7 mesi. E quindi quest'anno, quando si dovrebbero aprire le porte finalmente di quest'APE, c'è tutta una serie di persone che sarà anche sopra i 63 anni, ne avrà già magari 64-65, quindi ci sarà un surplus di platea potenzialmente interessata. Mentre appunto poi il governo ha stimato che nel 2018, perché per il momento è sperimentale solo per 2 anni l'APE, ma se andiamo avanti così sarà sperimentale per un anno solo, ci saranno 115.000, diciamo, potenziali interessati, perché poi appunto è esaurita, diciamo, la coda degli arretrati, poi quelli di anno in anno potrebbero essere circa 115.000 lavoratori. Il tuo pessimismo sulla durata dell'APE? Bravo, infatti mi ha incuriosito questo vigore con cui solo ha detto, guarda, tanto questi più di un anno non la riescono a portare a casa questa operazione. Senso che il primo anno ormai è già quasi passato, ancora un po' che aspettano ad attivarla, le domande si faranno direttamente nel 2018, quando peraltro si saprà, cadrà il velo su un altro dei dubbi che sta, diciamo così, tenendo alta l'attenzione, cioè quando si andrà in pensione, se si andrà ancora a 66 anni e 7 o 67 anni a partire dal 2019. Questa qua è una variabile importante, perché appunto incide sulla durata dell'APE. Se incide sulla durata dell'APE, incide sul costo della stessa, e quindi sono tutti fattori da tenere in considerazione quando uno deve farsi i suoi, allora, conti, Matteo, in casa. Io volevo chiederti un riepilogo essenziale. L'APE, tu hai già ricordato, si può chiedere quando ti mancano 3 anni e sette, massimo 3 anni e 7 mesi. Benissimo, tre anni e sette mesi. Deve durare almeno 6 mesi. Beh, puoi chiedere un anticipo che corrisponda a 6 mesi di, cioè puoi almeno arrivare agli ultimi mesi, sei, sì, mesi prima di pensionarti, esatto, e chiedere l'APE. Sì. Poi però devi restituirla in quanti anni? La restituisci in 20 anni a partire da quando vai in pensione. Quindi un lavoratore chiede che gli venga anticipata la pensione per un periodo che può andare da 6 mesi, sì, fino a 43 mesi. Esatto, fino ai 43 mesi, e dopodiché arriva il momento del pensionamento e lui comincia a ricevere la pensione vera e propria, ma ridotta, esatto, della quota che gli è stata anticipata, cioè dell'APE. Sì. Mm. Cioè l'importo che gli è stato anticipato nel periodo appunto dell'APE viene spalmato in rate mensili su 20 anni, poi vabbè, c'è la possibilità di restituirla in via anticipata anche parziale per chi ne avrà la possibilità, però diciamo che il piano di rimborso standard è su 20 anni. Certo. Parlavamo prima dei ritardi con cui Gentiloni ha firmato questo provvedimento, ritardi dovuti a tutta una serie di ragioni, intanto perché il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiedere alcuni chiarimenti rispetto alla norma che si stava confezionando, ma ci sono però anche altre come dire complicazioni che rendono un po' più rendono ritardata la partenza di questa operazione. Due dei tasselli che mancano e che citavamo prima sono intanto il costo dell'operazione a carico della persona che chiede l'anticipo pensionistico, perché trattandosi di un prestito sarà un rimborso poi successivamente su cui graveranno degli interessi, e poi c'è la cosiddetta polizza assicurativa accessoria. Se la persona che chiede l'anticipo pensionistico ad un certo punto del rimborso viene a mancare, chi si fa carico della restituzione appunto delle rate mancanti? Quindi queste due delle voci mancanti al completamento dell'operazione, Matteo, corretto? Sì, esatto, mancano, devono essere sottoscritte appunto queste convenzioni con l'ABI e con l'ANIA appunto sul fronte del prestito e della polizza assicurativa. A grandi linee sono già stati definiti, cioè almeno il governo continua a ribadire quali saranno i costi, i tassi di interesse, cioè il tasso di interesse dovrebbe essere sul 3,2% complessivo, il premio per la polizza assicurativa deve essere il 32% del capitale assicurato. Certo che poi sono i dettagli a fare la differenza, e quindi sono mesi che il tavolo è aperto e si cerca di trovare la quadra, anche perché poi nel frattempo appunto sono subentrate delle altre variabili, tra la prima appunto il fatto che si parte in ritardo, ma il governo ha deciso di rendere retroattiva l'APE. Certo, e quindi complichiamo ancora un pochino. Esatto. Chi farà la domanda a dicembre, ad esempio, potrà chiedere gli arretrati da maggio. A me non è ben chiara l'utilità di questa opzione, ma l'hanno prevista e quindi ne prendiamo atto. L'altra variabile che è stata introdotta è l'adeguamento automatico appunto alla speranza di vita, quello che dicevamo prima. Che potrebbe fare potrebbe consentire ai lavoratori di chiedere un prolungamento del prestito? Sì, perché il problema è questo: inizialmente non era stato previsto questo meccanismo. Peccato che dal 2019 l'età per andare in pensione vecchiaia cambierà, molto probabilmente si allungherà. Le stime che circolano in queste settimane dicono saranno 5 mesi in più, quindi non si andrà a 66,7 ma a 67. Il problema qual era? Che se uno chiedeva l'APE, così come era stata inizialmente congegnata, chiedeva magari 24 mesi perché pensava di andare in pensione dopo 24 mesi. Peccato che con l'aspettativa di vita attuale, nel frattempo spostano l'asticella, uno resta senza né APE né pensione. Tra l'altro la questione dell'aspettativa di vita è uno dei grandi temi che in questi giorni è al centro anche del dibattito tra governo e sindacati, no Mauro? Che tornano a parlare di pensioni in un altro vertice domani, in un altro incontro proprio domani dovrebbero vedersi. E tra l'altro, ma non vorrei complicare adesso le idee ulteriormente a chi ci ascolta, una delle ipotesi di cui si parlerà sarà anche quella di fare un'APE particolare riservata alle donne, cioè con dei requisiti inferiori che devono essere tutti precisati. Un'altra opzione donna in questo caso, un'opzione che donna solo relativa all'APE, questo potrebbe essere, ma ripeto, questi sono tutti discorsi per adesso ipotetici. Quello che invece abbiamo già spiegato Matteo fin qui è assolutamente vero, è stabilito, manca l'accordo, appunto gli accordi con ABI e ANIA per far partire davvero il meccanismo, ma quindi io la domanda per l'APE non la posso ancora presentare, Matteo. Non la si può ancora fare, appunto mancano queste due ulteriori tasselli, poi ci sarà una circolare dell'INPS ovviamente che spiegherà la procedura operativa, l'INPS metterà a disposizione... Altrettanto farà l'ABI nei confronti di tutte le banche, esatto. Peraltro... Diciamo però per i cittadini quello che sarà importante sarà la circolare INPS che spiegherà poi nel dettaglio come presentare domanda, anche la stessa se poi INPS in realtà, farà un simulatore... Esatto, il lavoratore comunque si interfaccerà solo con l'INPS, non è che deve andare da una compagnia di assicurazione a cercare, perché poi non vorrei che si solleveranno magari tutte le associazioni dei consumatori e diranno no vabbè, ma il lavoratore avrà diritto di scegliere quale polizza stipulare a protezione del proprio prestito, perché qua sai cioè, che il lavoratore sceglierà l'operatore tra quelli che aderiscono alle convenzioni, quindi diciamo potrà scegliere il soggetto che erogherà il prestito o la garanzia, però le condizioni quelle sono, cioè sono stabilite nella convenzione e lui si interfaccerà direttamente con l'INPS. Allora, certo che simulazione fatta oggi, non so se domani è ancora valida, però qualcuna ne abbiamo, Mauro. Sì, qualcuna ne abbiamo, ma io adesso infatti chiamerei in causa direttamente Andrea Carbone, perché... è tutto quanto meraviglioso, non è ancora pronto, però è quasi pronto. E però loro si preparano, quantomeno fanno i consulenti. Ecco, ma allora, dottor Carbone, quanto costerebbe, quanto potrebbe costare, fatto salvo, come ricordava prima Debora, ogni lavoratore ha una sua storia contributiva, una sua storia lavorativa, e quindi ognuno di noi prenderà una pensione differente, se parlo per i più giovani come Debora, se poi una pensione ci sarà, ecco, per loro. Esatto. Però sai, la mia aspettativa di vita è a 150 anni. Per cui... Guarda, nel frattempo si potrebbe arrivare così. Allora, dottor Carbone, quanto potrebbe costare chiedere questo prestito, questo anticipo della pensione? Allora, aiutiamo a capire come impostare il ragionamento, perché in effetti le variabili sono tante, stiamo ragionando con le informazioni disponibili ad oggi e in effetti bisogna proprio aiutare a impostare tutto. Allora, partiamo dall'inizio. Tutto quello che abbiamo detto, ricordiamolo, si applica soltanto ai lavoratori iscritti all'INPS. Quindi lavoratori dipendenti, autonomi, partite IVA iscritte. Ecco, quindi già io e te siamo esclusi perché abbiamo un altro ente previdenziale. Vabbè. Ad esempio giornalisti, architetti, ingegneri, commercialisti sono in altre casse, quindi questo meccanismo non si applica. Si applica a tutti coloro che compiranno almeno 63 anni all'interno della finestra di sperimentazione, tradotto tutti coloro che spegneranno le 63 candeline dal 1 maggio di quest'anno, quindi l'hanno già compiute, fino al 31 dicembre dell'anno prossimo, quindi nati del 54 e del 55. A questo punto, se si hanno 20 anni di contribuzione, bisognerà fare una domanda all'INPS che darà una certificazione che attesta che tutto è in regola, e a quel punto per ragionare bisogna prendere un pezzo di carta e tirare una prima linea che è la propria vita se si decide di non fare l'APE. Allora su questa linea metteremo un puntino che è il famoso requisito dei 66 anni e 7 mesi. Se io decido di non fare l'APE, evidentemente dai 66 anni e 7 mesi ci sarà la mia pensione. Noi abbiamo stimato un caso dove questo ammontare vale ad esempio 1.300 euro netti. Quindi da oggi ai 66 anni, se lavoro ci metto il mio stipendio, se sono disoccupato senza ammortizzatori sociali o senza poter beneficiare dell'APE social, ci metterò i miei valori e poi 1.300 euro da 66 anni e 7 mesi. Se invece decido di beneficiare dell'APE, tiriamo un'altra riga sotto la principale. Allora, cosa succede? Mettiamo due punti, mettiamo 63 anni e poi rimettiamo 66 anni e 7. Allora la scelta è, vado, me ne vado ora con prendo l'anticipo oppure aspetto, stringo i denti e arrivo fino al traguardo. Perché che cosa cambia in questa scelta? Cambiano i numeri che scriveremo, perché tra i 63 anni e i 66 anni e 7 scriveremo, ad esempio per il profilo che abbiamo simulato, 830 euro. Ok, se non sto lavorando, invece che non avere niente, potrei avere 830 euro. Se sto lavorando, invece di avere il mio stipendio, ne avrei, in questo profilo, 830 euro. Poi, al raggiungimento del requisito di vecchiaia dei 66 anni e 7 mesi, ricevo la pensione normale, ma decurtata della restituzione del capitale che ho ricevuto, quindi dell'anticipo, più gli interessi, più la rata assicurativa, più una piccola percentuale di un fondo di garanzia, morale ne ricevo 930 euro. Per 20 ne riceverei, perché precisiamo per sempre che stiamo ragionando sul con delle, un caso ipotesi. Con le ipotesi che sono circolate fino ad oggi. Con le ipotesi certo. Attuali. Allora, come si fa a dire se sia meglio aspettare 66 anni e 7 mesi e avere 1.300 euro per questo caso che abbiamo simulato dalla normale età di vecchiaia, o sia meglio averne 830 oggi per 43 mesi e poi 930? Allora, le risposte sono due. Una è assolutamente non numerica e soggettiva. Ognuno sa cosa, di cosa ha bisogno, quali sono i propri tenore desideri, di vita, obiettivi, esatto, ho ancora figli ipotetico, in casa, certo. E ognuno lo sa. Un modo tecnico per farlo è sommare tutte le pensioni che vengono percepite fino all'aspettativa di vita media. Cioè facciamo un conto e diciamo, va bene, se me ne vado prima con l'APE, in totale incasserò un valore di circa 258.000 euro. Se invece aspetto e non prendo l'APE e questo capitale, questo monte di soldi che mi danno però poco alla volta, precisiamo, sarà di complessivamente a vita media di 312.000 euro. Allora, da 258.000 a 312.000, quella è la differenza spalmata naturalmente sui 23 anni che stiamo calcolando, cioè i 20 della restituzione e i 3 dell'anticipo dell'APE. Quella è la differenza, quanto mi costa effettivamente, ecco, l'APE in questa simulazione con una pensione a 1.300 euro. Ci dobbiamo mettere però anche un altro aspetto che con grande vigore non era stato, mi pare, tanto sollevato nel dibattito che ha accompagnato tutto il lancio, in realtà la rampa di lancio dell'assegno, appunto, dell'anticipo pensionistico, come viene sempre assegno. Allora, una persona, ammettendo che abbia tutti i requisiti, la voglia di fare la richiesta, ammettendo che sia tutto pronto a partire, ammettendo che da domani mattina l'INPS consenta di fare questa domanda, in realtà al lavoratore verrà fatta anche un'analisi della propria situazione creditizia complessiva, perché se una persona è già indebitata perché sta pagando il mutuo, perché sta pagando la rata della macchina e sta restituendo altri prestiti, non è mica detto che facciano questa concessione. Matteo Prioschi. Sì, esatto, è un passaggio specifico che è contenuto appunto nel decreto che è stato firmato pochi giorni fa e prevede appunto, probabilmente per evitare, da una parte per tutelare le banche che erogano il prestito, dall'altra per tutelare i pensionati, per evitare il sovraindebitamento. E quindi è stato previsto, allora ci sono due limiti, uno che riguarda l'APE in quanto tale, cioè l'APE può essere richiesta fino a un importo massimo tale che la rata di restituzione non riduce la pensione sotto i 700,2 euro attuali, semplifichiamo un po'. E questo è un primo diciamo paletto a cui bisogna fare attenzione. Quindi la mia pensione non può scendere sotto i 702 euro tenuto conto della rata che devo restituire. Poi è stata introdotta un'altra regola, cioè che se ho altri appunto prestiti, finanziamenti che devo rimborsare, allora se io sommo tutte le rate ciò che devo restituire non può andare oltre il 30% della mia pensione. Esatto. Poi vabbè, ci sono altri paletti che vengono presi in considerazione dalle banche, tipo se sono già stato protestato, se sono iscritto a centrale rischi e cose varie. Giustamente dico io, ma questo sempre a tutela naturalmente della persona che fa questa richiesta, perché magari emotivamente non vede l'ora di andare in pensione perché fa un lavoro pesante, perché ha bisogno di gestire determinate incombenze familiari, e però poi tutti gli aspetti economici magari vengono trascurati e invece devono essere ben tenuti in mente. Allora Mauro, sono le 11:28. Allora a questo punto sì, devo andare a dobbiamo sapere tutto sulle borse. Dobbiamo sapere tutto sulle borse. Poi metteremo in onda dire anche un paio di ascoltatori che sono pronti con le loro domande. Molto volentieri. E lanciando ieri il programma abbiamo invitato gli ascoltatori anche a scriverci, abbiamo ricevuto alcuni casi e uno lo vorrei sottoporre poi a Matteo Prioschi e ad Andrea Carbone, se sei d'accordo. Ma molto bene. Signore e signori, la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di denari. Sono Tino, ho compiuto 63 anni il primo maggio e ho 40 anni di contributi come artigiano. Non ho usufruito dell'ape social, ma ora che i termini sono chiusi, da una visita pare che io debba fare i conti con il diabete e con una parestesia alle gambe che con il mio lavoro pesante non possono convivere. C'è un modo per rientrare comunque nell'ape social anziché in quella volontaria, che ha dei costi considerevoli? Altra domanda. Avendo io una pensione di 500 euro di mia moglie, morta purtroppo 14 anni fa, me la toglieranno in caso di ape volontaria o social oppure me la lasceranno? Da questo, tra l'altro, dipenderà molto la mia scelta se accettare l'ape oppure no, non avendo altri redditi. Grazie. Hai voglia quanti aspetti devono chiarire le future circolari IMSS, Mauro? No? Sono aspetti importanti quelli che solleva l'ascoltatore. La convivenza con la reversibilità già percepita. E poi, ecco, perché è rimasto fuori dall'ape social, che invece è partita? È partita e ha avuto anche, come ci può confermare Matteo Prioschi, che abbiamo qui con noi stamattina, è già una modalità che ha ricevuto più domande di quelle che ci si aspettava, giusto Matteo? E c'è un plafond disponibile. Sì, le domande sono leggermente superiori, poi bisognerà vedere quante saranno quelle effettivamente ammesse, perché ci sono dei requisiti precisi in questo caso. Faccio un paragone, la situazione è proprio analoga, però per darvi un'idea, quando ci sono state le ondate di salvaguardie per gli esodati e simili, cioè ci sono stati rigetti nell'ordine del 30% delle domande. Quindi qua è una situazione diversa, ma i numeri potrebbero essere ugualmente elevati, insomma, di domande respinte. E comunque c'è la possibilità di presentare domanda comunque entro la fine dell'anno, ci si mette in coda, se residuano risorse si viene comunque accettati, eventualmente scivola la decorrenza in avanti rispetto. Quindi intanto all'ascoltatore cosa possiamo rispondere? Che comunque può provare a farla. Allora, il problema è che per la social, cioè avere una malattia in quanto tale non è un requisito. Eventualmente dovrebbe avere il riconoscimento dell'invalidità civile per il 75% o oltre, quindi le procedure già diventano lunghe e cioè corre il rischio che ora che finisce la procedura si chiude definitivamente le finestre o comunque la possibilità di accedere all'ape social venga meno. Insomma, per quanto riguarda invece l'ape volontaria non c'è problema con altri redditi, appunto, anzi una delle caratteristiche dell'ape volontaria è quella di poterla utilizzare anche in contemporanea, ad esempio con un lavoro, anche con un lavoro part time, certo. Uno si stufa anziché e trova un accordo con l'azienda oppure ha possibilità di ridurre a prescindere l'orario di lavoro, può chiedere l'ape per una quota ridotta, quindi avrà anche un prestito, una rata ridotta. Perché noi le simulazioni che abbiamo fatte le abbiamo fatte ai range massimi, no? Possibile. Esatto, certo. Esatto. Invece uno può chiedere un assegno minore, continuare a lavorare part time e cumulare le due cose, quindi avere già un'altra entrata non è un problema. È una cosa da investimento davvero complicata, come ci spiegava prima Andrea Carbone, dobbiamo stimare quant'è la durata massima e quindi poi l'effetto, l'impatto sul capitale complessivo che avremo a disposizione nei prossimi 23 anni o 20 anni, sempre ammesso appunto di riuscire a restituire il tutto e non di passare a miglior vita, nel senso di allontanarsi in qualche paradiso esotico, magari esatto, in dolci compagnie. Questo, allora, a chi può convenire o meno fare questa richiesta? Ne parlavamo a microfoni spenti, ipotizzando un po' le situazioni magari un po' più complicate anche sul posto di lavoro, oppure al di fuori del posto di lavoro, perché c'è qualcuno che in questo momento ne è sprovvisto, come il caso di Pasquale da Napoli. Però ha 20 anni di contribuzione che porta in dote, per cui Pasquale dice... Pasquale, buongiorno, qual è la sua buongiorno domanda? Eccoci. Sì, praticamente volevo sapere, io come disoccupato, avendo diciamo questo patto dei 20 anni, vado a pagare qualche rata mentre da restituire o non pagherò niente? Beh, allora, intanto dipende se ha le caratteristiche, i requisiti per poter fare domanda per l'APE volontaria. Andrea Carbone, se vuole candidare alla risposta al nostro ascoltatore. I requisiti di base, lo ricordiamo, sono lavoratore iscritto all'INPS, che abbia almeno 63 anni e abbia almeno 20 anni di contributi. In quanto disoccupato, deve essere disoccupato senza, o diciamo avendo esaurito, eventuali sussidi, ammortizzatori e aiuti. In questo caso può fare la domanda, potrà fare la domanda presso l'INPS quando sarà a disposizione il canale informatico per farla, e numeri alla mano potrà ragionare. Sicuramente una situazione di disoccupazione rispetto a chi abbia un lavoro è una situazione che vede l'APE volontario come uno strumento utile o economicamente interessante. Economicamente interessante, resto in disoccupazione o beneficio di questo meccanismo. È sicuramente una situazione sulla quale riflettere, numeri alla mano, ricordiamolo sempre. Allora, Deborah, io ho capito questo, che al di là delle difficoltà che poi ognuno dovrà, dei conti che ognuno può fare, perché davvero si tratta di una sorta di investimento importante sul proprio futuro in cui le variabili sono moltissime, un po' come quando, se volete, si compra una casa, mi sembra di capire, no? Quindi ci si accolla un mutuo, e questo mutuo può avere tanti aspetti, e la sostenibilità del mutuo e la piacevolezza della casa che si va a comprare dipendono da tante cose, la situazione di partenza, ma anche la pensione che ci si aspetta. Magari con una pensione alta, dicevamo prima, dottor Carbone, esatto, potrebbe essere più interessante aderire all'APE se uno, per dire, non ha più grande interesse nell'attività che sta svolgendo, nel suo lavoro, è così? Sì, quando si parla di pensioni la chiave di valutazione è il rapporto tra tempo di vita e valore economico. Per ognuno di noi un anno di vita, sei mesi di vita lavorativo pensionistica e un euro, 10 euro, 100 euro hanno un peso diverso in funzione del valore economico che attribuiamo al tempo, se vogliamo vederla positivamente. Se vogliamo vederla invece in chiave di esigenze quotidiane, bisogna vedere, certo, chi ho in famiglia, sono sposato, sono da solo, ho dei figli che devono ancora studiare. Oggi, ricordiamolo, si fanno figli sempre più tardi. Questo significa che l'età di indipendenza economica dei figli, ad esempio, certo, si sposta verso l'età pensionistica dei genitori. Sto bene, non sto bene, anche questo è un tema importante. Allora, ci sono tanti messaggi su WhatsApp, abbiamo anche adesso Duilio da Pisa e si è aggiunta Loredana da Pistoia, da ascoltare velocemente, poi abbiamo anche la finestra sui voucher da aprire, però rapidamente rispondiamo magari a due WhatsApp. Fulvia chiede: se si muore chi restituisce? Qua abbiamo ancora in ballo, Fulvia, tutta la questione dell'assicurazione applicata a questo finanziamento, un tema non del tutto ancora chiarito, il famoso tassello mancante. E un altro ascoltatore che chiede, Cesare da Vicenza: 20 anni di contributi in un'unica gestione, sì, l'INPS. Qua il punto è chiaro, Andrea. Sì, nell'INPS, e per Fulvia comunque la copertura assicurativa non si sa ancora quanto costerà, però rende, fa salvo il fatto che nessuno debba mettersi a ripagare e restituire quel debito. Ah certo, comunque è sempre in capo all'individuo, esatto, che ha sottoscritto, ecco, il prestito, tra virgolette. Posso rispondere a Paolo rapidissimamente? Ci chiede al 349-238-6666: l'assegno sarà retroattivo dal 1 maggio? Sì, perché una delle poche cose che abbiamo potuto appurare, giusto, chiedo conferma a Matteo Prioschi, è che è così. Su richiesta, cioè uno può farlo partire da quando fa la domanda effettiva oppure può chiedere la retroattività. Ah, quindi anche se avessi i requisiti che partono dal 1 maggio, diciamo, non è detto che lui faccia richiesta. Può scegliere di non chiedere l'arretrato, perché ricordiamo che l'arretrato si paga. Cioè. Certo. E ricordiamo che c'è quell'ale che ci ha detto prima Matteo Prioschi, potrebbe aumentare la speranza di vita e quindi innalzarsi l'età in cui verrà concesso di andare in pensione. Allora, attenzione, la retroattività fa gola da una parte, è meravigliosa, ma dall'altra potrebbe essere invece di nocumento. Per la prossima puntata sull'argomento viene anche Nicoletta Carbone con i suggerimenti per il mal di testa, perché qua stamattina ne usciamo fuori un po' a pezzi. Detto questo, noi proviamo a chiarire insomma tutto questo nuovo meccanismo. Duilio da Pisa, velocissimo, grazie, poi andiamo all'ultimo tema. Buongiorno, grazie per la compagnia. Volevo chiedere, io ho 51 anni e 37 anni contributi, fino a che età devo lavorare io? Duilio, allora mi scusi, ci ribadisce, 57 anni di età? No, 51, scusi, io sì. Ho cominciato a 14 anni a lavorare e ho 37 anni di contributi. 37 anni di contributi, chi è che vuole rispondere? Matteo. La prima pensione è quella anticipata, attualmente sono richiesti 42 anni e 10 mesi di contributi, poi ci serve l'adeguamento. Esatto, quindi almeno altri 5 anni deve lavorare. Che diventeranno un po' di più appunto, esatto, nel corso del tempo. Però intanto che si tranquillizzi, la sua pensione non è dietro l'angolo. Loredana da Pistoia invece corrediamo con una voce femminile le domande di questa mattina. Sì, buongiorno. La mia domanda è questa. Io ho compiuto 63 anni a marzo di quest'anno. Ho smesso di lavorare nel 2005 per problemi miei familiari, però ho 20 anni di contributi. Può andare bene fare la domanda? Allora, prego, Andrea Carbone. Prego, Andrea. Se è lavoratrice INPS, i requisiti ci sono: avere almeno 63 anni e almeno 20 anni di contributi. Poi bisogna vedere che l'assegno pensionistico abbia un certo valore, ma questo lo dirà poi l'INPS. Ma io posso complicare ancora la vita dell'ascoltatrice e dire: però aspetti, perché se nella legge di bilancio le mettono un vantaggio per le donne, potrebbe darsi che la sua APE o il suo APE, non abbiamo poi sciolto questo dubbio grammaticale, potrebbe darsi che diventi chissà più conveniente. Ma sì, guarda, tanto ancora la domanda non può farla. Tanto vale che aspetti la legge di bilancio, perché ci sono un paio di mesi, esatto, di attesa. Ascoltando sempre due di denari tutti esatto, i giorni, perché noi chiaramente su questo tema continueremo ma a stare. Ma faremo una gran battaglia, insomma, di comunicazione, divulgazione e chiarimento, se possibile, laddove ce lo consentano, naturalmente, se non ci complicano ulteriormente le cose. Allora Mauro, io direi di salutare Matteo e Andrea Carbone, che ringraziamo per essere stati con noi. Grazie a voi, alla prossima. Grazie a voi. Perché noi dobbiamo andare adesso ad aprire anche un nuovo argomento. Non so se lasciarti fare quello che ti piace fare o se andare ad anticipare qualcosa di cui parleremo più tardi. No, togliamoci la pratica. Togliamoci la pratica? Sì. Ah, beh, allora, cara Debora, caro Andrea, caro Matteo e cari ascoltatori soprattutto, traffico! 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre, a Genova. Vi presenta... di denari. Dove eravamo rimasti? I voucher non ci sono più, non torneranno. Abbiamo uno strumento che è molto più limitato, molto più tracciato, molto più certo, non permette scappatoie di nessun tipo e risolve un problema che è quello del lavoro occasionale, che aveva bisogno di una regolazione e adesso con queste norme la regolazione arriva. Calcellato con un colpo di spugna a marzo, il provvedimento per la nuova versione è arrivato a maggio, in estate sono partiti questi nuovi voucher, boom o flop, Mauro? Ma diciamo che sono partiti un pochino lentamente, hanno avuto un po' da motore diesel, ecco, hanno dovuto carburare lentamente, le domande, le registrazioni, pardon, erano 27.000 circa a fine agosto, un mese e mezzo è entrata in vigore e tra l'altro precisiamolo, ricordiamolo, questo sistema, questo nuovo meccanismo dei voucher che continuiamo a chiamare così per comodità, è diviso in due parti. Da una parte c'è il libretto di famiglia, che è per se il datore di lavoro è una se il datore di lavoro, il committente è una persona fisica. Quindi se tu avessi bisogno che io venga a pulire la tua scrivania, mi devi contrattualizzare secondo questa modalità. Esatto, e lo stesso vale per te se io devo farti la spesa e tu vuoi esatto, darmi qualcosa. Invece se vengo incaricato da una piccola azienda di fare un lavoretto per loro, perché parliamo sempre di lavori occasionali, lavori circoscritti, non è un'attività vera e propria che deve essere svolta, allora lì c'è tutto un altro sistema di registrazione. Forse non è così puntuale, ma ci può spiegare tutto, secondo me, Alessandro Rotaporta. Ha passato che tutta l'estate, non solo a studiare, ma anche a scrivere per il Sole 24 Ore di questi argomenti. Alessandro, buongiorno e ben ritrovato, grazie. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. 10 minuti di tempo per rifare il riepilogo della situazione sulla base anche dei dati che abbiamo, che sono stati quelli che ci ha raccontato prima Mauro, in realtà dati ufficiali dell'INPS, che appunto da qualcuno sono stati descritti non tanto come un boom ma quasi come un flop. Sicuramente c'era l'estate di mezzo, ma c'era anche tutta una serie appunto di quali sono le complicazioni più significative secondo lei, Rotaporta, che in particolar modo le piccole aziende hanno trovato, perché magari per il libretto famiglia forse era un po' più semplice, ma non è detto, insomma, quale versante ha trovato più difficoltà nell'applicazione della nuova norma? Ma intanto va detto che diciamo la fase di avvio, quindi proprio di primo rodaggio, è stata un po' tassellata da una serie di complicazioni dal punto di vista gestionale, ossia l'INPS in una prima battuta non ha rilasciato le funzionalità per affidare questi adempimenti che, come avete accennato, sono tutt'altro che semplici, a un intermediario, quindi chi non voleva far da sé all'inizio ha dovuto aspettare oppure aggiustarsi. Si è dovuto arrendere a un CAF, no, a un patronato probabilmente, o a un consulente del lavoro. Purtroppo all'inizio l'abilitazione per l'intermediario è venuta solo a fine luglio, quindi poi difficoltà iniziali banalmente, perché siccome la procedura nuova prevede tutta una serie di passaggi di registrazione sia per il prestatore che per il committente sul portale dell'INPS, e quindi bisogna essere in possesso del PIN dispositivo per poter operare, e quindi molti soggetti sia da un lato che dall'altro non ce l'avevano, quindi questo sicuramente ha frenato. Poi c'è da dire che l'ambito, l'avete accennato, è stato notevolmente perimetrato e ristretto, quindi questo ovviamente l'utilizzo non è da parte di tutti, anzi da parte di pochi. E poi mettiamoci, oltre a questi aspetti burocratici, e qui parlo soprattutto lato imprese, quindi per il contratto di prestazione occasionale, la normativa un pochettino spaventa per il fatto di aver reintrodotto, che era un fantasma che alleggiava già in passato, un requisito di occasionalità e di saltuarietà quale presupposto per poter attivare questo tipo di rapporto, e qui ovviamente, non essendoci una nozione chiara e certa, chi lo deve utilizzare ha un attimino di scrupolo nel dire: ma questa prestazione effettivamente la posso remunerare, retribuire con questo, oppure no? Quindi ecco, ci sono anche delle casistiche molto particolari che effettivamente rendono un po' tutto complicato. Poi lato lavoratore mettiamoci i tempi di accredito, perché comunque l'INPS adesso è l'INPS che paga direttamente la prestazione, quindi non è il committente come avveniva in passato, ma è l'INPS, e l'INPS lo può fare entro 15 giorni, cioè come tempo massimo 15 giorni del mese successivo quando la prestazione è avvenuta. Quindi è tutto un sistema che ovviamente scoraggia un po' entrambe le parti, anche chi versa, quindi il committente che costituisce il suo borsellino, nel momento in cui fa il versamento, a quando ha la disponibilità online di quanto ha versato, passano 9-10 giorni. Quindi tutto è stato un po' dilatato. Sì, perché infatti, dottor Rotaporta, qui, per riassumere molto sinteticamente, tutto ruota attorno al sito dell'INPS, sia il committente, azienda o persona fisica che sia, e dall'altra parte il prestatore del servizio, dell'opera che viene svolto, devono registrarsi, confluire su questo sito, ognuno per la sua parte, esatto. Devono inviare delle conferme poi che il lavoro è stato effettivamente svolto, e di lì al 15° giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione il prestatore si vedrà corrisposto il quantum cifra, che esatto. Poi è 10 euro che però sono lordi, dico bene, dottor Rotaporta? Sì, il compenso varia a seconda se si parli di libretto di famiglia o del contratto di prestazione, quindi quello rivolto sostanzialmente alle imprese. Il netto per i lavori, chiamiamoli così, piccoli lavori domestici, è di 8 euro, invece il compenso netto per l'altro tipo di prestazione è di 9 euro, quindi sono dei compensi e dei costi anche in capo al committente diversi a seconda se si parla di una finalità o di un'altra, quindi c'è anche questo aspetto che diversifica un po' le due impostazioni. E poi c'è un tetto massimo, perché non si possono superare alcune soglie in un anno con lo stesso prestatore, con lo stesso lavoratore. Sì, ci sono dei limiti economici che sono praticamente, quindi sia in capo al prestatore che in capo al committente, c'è un massimo di 5.000 euro con riferimento alle diverse, quindi alle diverse prestazioni effettuate, e questo limite in capo, diciamo, al singolo, quindi al singolo committente da parte del prestatore, scende a 2.500 euro, quindi ci sono un doppio limite. E poi è stato introdotto, e questa è una novità della nuova impostazione, anche un limite di ore effettuate, quindi c'è un limite annuale di 280 ore che si possono prestare con questa formula. Non dimentichiamo che dal lato, quindi se l'utilizzatore è un'impresa o un professionista, oltre a tutto il sistema di comunicazioni, di registrazioni, c'è anche l'obbligo di preventivamente, quindi giornalmente, ma almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, andare a fare una segnalazione di questa prestazione, con anche indicazione delle fasce orarie impiegate. Quindi vediamo che ovviamente il sistema è tortuoso, diciamo così. Esatto. Tortuoso per un fine nobile, diciamolo, perché poi sì, se no sembra sadismo burocratico. Sì, famoso abuso da voler combattere, chiaramente siamo passati dall'altra parte alla complessità. Diciamo che il sistema ha bisogno di un po' di tempo forse per entrare nella quotidianità delle persone, tra l'altro anche per le società di calcio, e lo ha scritto proprio Matteo Prioschi, esatto, che abbiamo ascoltato poco fa parlarci di Ape. Ecco, Matteo Prioschi ci ha segnalato che, attenzione, perché adesso le società di calcio sono in crisi per pagare ad esempio gli steward, cioè quelle persone che accolgono i tifosi, segnalano i posti a sedere, e però devono adeguarsi, insomma, a questo nuovo meccanismo, ma essendo di solito aziende un po' più grandine, esatto, di quelle alle quali consentite il voucher. Ed è un mondo dove circola anche gran denaro, per cui possono certamente trovare il modo per disciplinare in maniera corretta l'operato di questi professionisti, se proprio ci tengono tanto. Ma vedi, non sei vicina ai dolori delle società di calcio? Non sono per niente vicina, sono più vicina invece al mondo degli amministratori di condominio. Ci scrivono su WhatsApp e chiedono se il nuovo sistema dei voucher va bene anche per un condominio che dovesse commissionare dei lavoretti ad un lavoratore. So che il tema condominio, peraltro, sul Sole, in relazione ai nuovi voucher, lo avete affrontato spesso, ma sentiamo Alessandro Rotaporta se ci sa dire qualcosa in più. Sì, in questo caso il, diciamo, canale a cui si può ricorrere è quello del contratto di prestazione occasionale, quindi il condominio non è assimilabile sostanzialmente al mondo dell'impresa dal punto di vista di questa norma, e quindi se si vuole ricorrere al voucher per i piccoli lavoretti condominiali si può fare però con il cosiddetto presto, quindi il contratto di prestazione. Certamente. Occasionale. Grazie ad Alessandro Rotaporta per essere stato con noi. La musica, come sentite, ci annuncia la chiusura della trasmissione. Torniamo domani. Però potete scriverci 2didenari@radio24.it. E domani torna Investire Informati. A tutti, buona giornata.